24 mattino estate con Irene Zerbini. Bentornati insieme, un numero 349-238-6666, questo è quello degli sms, potete partecipare sempre interattivamente alle nostre discussioni, alle nostre riflessioni. E prima di dare il benvenuto all'ospite di questo segmento del mattino, concentriamoci anche su quello che succederà. Andremo a incontrare un corrispondente straniero, ancora una volta alle 8:15, che osserva l'Italia, e la racconta. Questa volta è un russo e quindi inevitabilmente molte domande verteranno anche sulla sua testimonianza riguardo agli incendi di questi ultimi giorni, a come la quotidianità è stata affrontata e vinta dalla popolazione moscovita, in particolare in mezzo al fumo e in mezzo alle emergenze conseguenti. Andremo poi alle 8:30 al nostro sondaggio. Oggi vi abbiamo chiesto se noi italiani siamo indifferenti al patrimonio artistico nazionale. Gli stranieri vengono colpiti dalla sindrome di Stendhal quando vengono in visita alle nostre città d'arte, fanno domande pregnanti, sanno raccontare storie sui monumenti che vedono, memorizzano, imparano, sono avidi, e noi ci camminiamo in mezzo quasi non notandoli. Siamo forse assuefatti a troppa bellezza, o viceversa, ne siamo orgogliosi in maniera misurata e forse temiamo di esternarlo troppo. Questa è la nostra domanda. Potete partecipare al sondaggio sul sito www.radio24.it. E fino a questo punto hanno votato sì il 75% dei nostri ascoltatori, sì, siamo indifferenti al patrimonio artistico nazionale, è ora che facciamo qualcosa per cambiare questo corso, e no il 25%. Alle 8:30 in bianco e nero continueremo a votare, a discutere e a sentire naturalmente le vostre osservazioni. Sono giornate lugubri secondo alcuni per il livello del dibattito politico, sono giornate invece produttive per fermarsi e riflettere. Sono giornate in cui spesso si dice: attenzione, la politica ha un ruolo diverso da quello, da questo teatrino a cui veniamo sottoposti tutti i giorni. E le critiche vengono da destra, da sinistra, sono critiche piuttosto trasversali. Non si era mai visto però fino a questo punto una critica politica che partisse dall'analisi dell'intolleranza, e proprio questo elemento nuovo in un editoriale della Stampa di ieri ci ha colpito. Abbiamo scomodato l'autrice questa mattina, le do il buongiorno, benvenuta Irene Tinagli. Buongiorno. Docente all'Università Carlos III di Madrid, Irene Tinagli, esperta di innovazione, creatività, sviluppo economico, e scrive appunto sul Quotidiano di Torino. E la tua, Irene, è un'analisi politica che parte da comportamenti in spiaggia. Il caldo, si sa, apre proprio così, da un po' alla testa, ma non può essere solo il caldo la causa dell'ondata di denunce, insulti e aggressioni rivolte a persone che, a detta dei denuncianti, offendono il pudore e la sensibilità della gente. Ma chi sono questi svergognati e quali sono i vituperati atti osceni oggetto del contendere? Sono coppie dello stesso sesso che si tengono per mano e che si scambiano un bacio in pubblico. E chi altro, Irene? Ma li abbiamo visti molti, no? Episodi di questo genere, per esempio la ragazza in topless ad Anzio che è stata denunciata dalla vicina di Ombrellone perché secondo lei turbava i figli, poi abbiamo avuto anche episodi di mamme che allattavano che sono state redarguite, qualche mese fa c'era stato, ricordo, un docente di educazione sessuale che era stato denunciato dai genitori perché aveva usato un linguaggio, come dire, che secondo lui non era appropriato. Ma tutta una serie di cose che fanno un po' pensare, no? Questo ritrovato perbenismo, no? È un'ondata di fondamentalismo bigotto che investe il paese? Ma appunto, io voglio fare una riflessione proprio su questo fatto. Non credo che la gente all'improvviso si sia scoperta più cattiva o più bigotta, però credo che ci sia un vuoto e una responsabilità anche della politica, che ha smesso in un certo senso di occuparsi della società, di accompagnare i cambiamenti sociali, aiutare le persone a capire come avere delle nuove regole di convivenza civile, rispettare gli altri, essere tolleranti, capire dove davvero, qual è il limite della libertà degli altri. Prima si diceva sempre la libertà di una persona finisce dove inizia la libertà degli altri, dove si rispetta la legge, eccetera. Adesso è diventato molto più labile, no? Le persone si ribellano quando dice mi dà fastidio, urta la mia sensibilità, e quindi scattano denunce, insulti e anche aggressioni. Questo secondo me è un po' come è dire, una deriva. E infatti è una deriva molto pericolosa, secondo me. E quindi secondo te e secondo la tua analisi il pudore, diciamo così, non riguarda solo l'ambito personale o l'ambito ideologico o religioso dell'individuo? No, io penso che ci debba, chiaramente è normale che ogni individuo abbia una propria, come dire, un proprio senso del pudore, che si regoli di conseguenza. Quello che non è normale è che poi ciascuno si faccia, come dire, le proprie leggi e dica allora questo non va bene, due persone che si tengono per mano non va bene, offende tutti, solo perché magari questa persona non condivide, e qui si crea un po' un caos, anche perché quello che succede è che spesso la politica, anziché cercare di intervenire per smorzare, guidare, aiutare questi cambiamenti, eccetera, asseconda spesso, no? Cavalca queste paure. È anche normale che la gente comune, tra virgolette, possa reagire male a dei fenomeni che per loro sono nuovi. Ci possono essere persone che non sono abituate a vedere due persone gay che si tengono per mano e che sul momento non sanno come reagire. In queste situazioni è necessario che ci sia un ruolo dei politici, della classe dirigente, dei media, che aiuta, no, a dirimere queste questioni con mano decisa, aiutare la società a crescere. Se questo non avviene, allora accadono questi fenomeni di intolleranza che diventa deligante. Maggior ragione se la politica si torna un po' a ragionare con la pancia, mentre la consapevolezza di una società che cambia, perché di cambiamenti se ne affrontano sempre tanti, secondo la tua analisi dovrebbe essere elaborata anche in sede politica. Ma in passato è stato fatto? Ma io credo di sì, perché noi l'abbiamo visto negli anni 70, per esempio, le grandi battaglie civili, i dibattiti sul divorzio, sull'aborto, i diritti delle donne. Molte di questi argomenti non sono stati lasciati in balia, no, degli umori individuali e personali, ma sono stati dibattuti, discussi nell'arena politica. I partiti hanno preso posizione, ciascuno faceva la propria informazione con i propri elettori, se ne parlava, c'era più coraggio da parte della politica di affrontare questi temi, che è vero che sono temi spinosi, però sono i temi che riguardano la vita quotidiana delle persone, sono i temi che aiutano un paese a crescere e ad affrontare queste questioni che comunque esistono. Ci sono questioni come quella del testamento biologico, del ruolo, del rispetto delle donne, dell'omofobia, sono questioni che naturalmente andrebbero dibattute, discusse, ma che a volte vengono accantonate proprio per paura di dire, forse, di affrontare o di prendere posizioni impopolari. Ci vorrebbe, secondo te, una specie di coraggio politico, che però non è solo coraggio politico, è anche un coraggio economico. Che cosa ha a che vedere l'omofobia con l'economia, Irene Tinagli? Questo è un tema a cui tengo molto, un'altra cosa di cui non si parla tanto, ma io penso che abbia a che fare anche con temi economici, perché io sostengo sempre che non ci può essere uno sviluppo economico, una crescita economica sana, sostenibile nel lungo periodo, se non c'è anche una crescita sociale, culturale, perché per molti versi cioè questi due aspetti sono molto molto collegati. Se noi vogliamo creare una società più dinamica, più innovativa, più attrattiva attrattiva. Oggi si parla tanto di rendere l'economia attraente per i talenti stranieri, per gli investimenti stranieri, e tutto questo non lo si può fare con una società che resta ancorata al passato, lo si fa aprendo la società e aiutandola a crescere, no? E quindi in questa maniera si aiutano le persone ad essere al passo coi tempi, ad essere più innovative, e secondo me si aiuta anche i processi innovativi e l'economia a crescere. E l'attrazione dei cervelli, cioè persone che hanno dei talenti e dunque dei patrimoni sociali da portare e con cui contribuire allo sviluppo di una società, si sentiranno più a loro agio, si sentiranno meglio in una società che non li valuterà per il loro orientamento sessuale, per il loro colore della pelle, per il loro orientamento religioso, e quindi questo dovrebbe aiutare, secondo quanto tu hai detto, anche la crescita economica. Ma altrove succede? Si è attenti in politica anche a questa variabile? Si comincia, negli ultimi anni sì, è un tema di cui si sente parlare nei paesi del nord Europa, negli Stati Uniti, in America del Nord, in Canada. Io queste cose di cui sto parlando adesso ne parlo in maniera così anche colloquiale, però in realtà su questi temi ho fatto molta ricerca nel corso degli anni, no? Cercando di capire, di indagare, di testare questa correlazione tra variabili sociali, variabili economiche, ed è vero, se si guarda anche negli Stati Uniti, per esempio, il grande boom economico della California negli anni 80-90, poi alla fine sono anche figli di movimenti sociali che hanno consentito a queste regioni di crescere, di attrarre giovani talenti da tutto il resto del mondo, accoglierli e non giudicandoli per quello che sono, ma per il contributo di energia, di talento, di innovazione che sapevano dare. Però appunto, per poter accogliere e valorizzare questi talenti, queste innovazioni, queste novità, bisogna anche essere pronti ad affrontare quello che è nuovo, quello che è diverso, quello che ci sorprende da tanti punti di vista, e questo lo si fa solo con una società più aperta e tollerante. Perché una società che si chiude, dici tu, finisce male anche economicamente. È una responsabilità della politica, dunque una posizione netta, un'attribuzione netta, la tua, avviare e gestire il dibattito. Questo poi non vuol dire tirarsi per i capelli in pubblico, andare sulle barricate e litigare senza che messaggi vengano elaborati e idee vengano fatte trascorrere, ma elaborare, avviare il dibattito. Succederà? Io me lo auguro, guarda, questo autunno si prospetta un autunno abbastanza caldo, perché comunque avremo, è stato citato prima, no? La legge sul testamento biologico passa alla Camera, andrà votata, per cui bisognerà in qualche modo parlarne. È molto probabile che anche la legge contro l'omofobia, che era stata bocciata pochi mesi fa, torni in Parlamento proprio quest'autunno, per cui dovremmo parlarne. Io quello che mi auguro appunto è che queste siano occasioni, come si diceva prima, non di scontro, di litigi dove non si capisce nemmeno di cosa stiamo parlando, ma che sia l'occasione davvero di avviare un dibattito. Le persone hanno bisogno di questo, di essere informate, di essere aiutate a riflettere, poi si faranno la loro opinione, però ecco, che abbiano gli elementi per valutare certi temi in maniera serena, oggettiva, valutandone tutte le conseguenze. Poi si possono fare, mio articolo, il non tuo sono non è un giudizio, fare una cosa. Sì. Non è un giudizio contro l'opinione pubblica che prende questa o quella posizione, ma la mancanza di informazione e di elaborazione e circolazione di idee. Irene Tinagli, grazie. Dobbiamo grazie salutarci. Irene Tinagli, docente all'Università Carlos III di Madrid, è un'esperta, l'ha studiato, avete sentito, proprio di innovazione, creatività e sviluppo economico. Oggi con noi qui a Radio 24 vi abbiamo chiesto: noi italiani siamo indifferenti al patrimonio artistico nazionale? Questo è il sondaggio. Votatelo sì, no, per le opinioni in mezzo poi ci contatterete. www.radio24.it. Ora la rassegna stampa. 24 mattino estate. Venerdì 13 agosto, qualche coordinata, e stiamo per incontrare i corrispondenti, questo ciclo che abbiamo creato di corrispondenti stranieri che vivono in Italia e che quindi fanno delle osservazioni con prospettive, portando nelle loro analisi degli elementi che a volte sfuggono agli italiani. Oggi però cominciamo facendo raccontare al nostro ospite il suo paese. Privet! Privet! Evgeny Utkin, l'avete sentito, è il corrispondente in Italia per Expert, un settimanale economico politico russo ad altissima circolazione. Ma in questo momento, Evgeny, tu non ti trovi in Italia. Dove sei? Sono stato a Mosca, adesso leggermente fuori Mosca, diciamo pochi chilometri, per sentire comunque ancora odore di fumo e sentire ancora caldo. E ci puoi raccontare quindi di prima mano, diciamo così, cosa voglia dire vivere in mezzo al fumo generato da questi incendi, da queste foreste che hanno devastato il paese? Tu ti trovavi a Mosca, dunque sì, nella capitale, dove boschi non ce ne sono, ma arrivava il fumo naturalmente dalle foreste accanto. Cosa si vedeva camminando per la strada? Ma guarda, camminando per la strada si vedeva proprio grigio come serata anche di giorno, c'era proprio polvere, non era di macchine, anche questo mescolato, ma proprio polvere di fumo forte, di brucio di foreste e di torbe vicino. E quali erano gli espedienti della gente per riuscire a svolgere le attività quotidiane? Autorità ha consigliato di quasi non uscire di casa senza grossa necessità, o comunque se uscire portare la maschera antifumo, una semplice mascherina. Dove si acquistava? Acquistava in farmacia, dicevano che si comprava anche nel supermercato, che mai visto, però in farmacie... Ce n'erano per tutti di mascherine? No, il problema è che qualcuno ha addirittura sfruttato il momento, quindi compravano 100 maschere e poi rivendere a 3-5 volte prezzo più caro rispetto a quello di... E quindi c'è stato per 2-3 giorni nelle farmacie e poi sono finiti. È tornato il deficit dei tempi sovietici? Assolutamente sì. Per la prima volta, dunque, nell'emergenza? Dopo ventina di anni sì. E si vedevano anche lenzuola appesi alle finestre, ai balconi. A cosa servivano queste lenzuola? Ma lenzuola, se la inzuppi nell'acqua e la metti sulla finestra, aiuta due cose. Prima diventa un po' più fresco, visto che con 37 fuori e a casa alcuni hanno sopra 40, invece di essere più fresco più caldo. E quindi lenzuolo inzuppato di acqua aiuta prima di essere più fresco e soprattutto raccolgono fumo, diciamo. Non tutto, ma aiuta un po'. Si sono registrati disagi anche per i voli? Ma per i voli alcuni sono rallentati, diciamo più clamoroso mandavano quelli che andavano a Mosca a San Pietroburgo, che è 600 km fuori Mosca, quindi non è un aeroportino vicino. Sì, aeroporto di Domodedovo è stato anche, alcuni voli sono stati cancellati, quello internazionale funzionava. E il capo dell'autorità sanitaria della Russia, Onischenko, aveva chiesto ai datori di lavoro di dare le ferie ai propri dipendenti. Hanno ascoltato l'appello? Ma maggior parte hanno ascoltato, proprio per due ragioni, perché anche quelli che arrivavano erano in condizioni di lavorare comunque di meno, sia quelli che pensavano sia quelli che lavoravano, non so, sia con la testa sia con le mani, perché comunque con queste temperature, con questo fumo si sentiva, cioè tanti tossivano, è un po' mal di testa e comunque debolezza, quindi anche nel senso di lavoro producevano di meno. E oggi com'è la situazione? Ieri è un po' migliorata, oggi relativamente buona, e anche la buona notizia è che il numero di incendi che sono adesso, numero di incendi spenti, hanno superato il numero di incendi attivi. Si è fatto un calcolo di quanto costerà questo grande, immenso incendio difficile da domare alla Russia? Sì, alcuni hanno fatto calcolo, solo il costo a breve periodo della siccità e fuoco possono superare il costo di bonifica del territorio colpito dal Mare Nero nel Golfo del Messico. Questo per dare le misure del fenomeno che anche i giornali europei di tutto il mondo hanno continuato a seguire. Veniamo ora alla tua attività invece di corrispondente dall'Italia. In quale città vivi in Italia? E in Italia a Milano. Da quanti anni ti trovi in Italia? Ma più di 10 anni. Di cosa hai scritto per Expert? Quali sono i titoli e i temi dei tuoi ultimi articoli? Ma uno dei più grossi ultimi è stato ovviamente visita di Presidente Dmitry Medvedev a Milano da Silvio Berlusconi. Ho potuto testimoniare personalmente che tra loro due c'è forte amicizia. Si sapeva e ho visto che c'era quella di con Putin, però ho visto che anche con Dmitry Medvedev c'è una cordialità che spero che dà frutti anche nel campo economico. Nel campo economico soprattutto, questo è quello di maggiore interesse e dei russi e dei lettori del tuo settimanale. Cosa si aspettano da questi rapporti cordiali tra i due paesi? Ma come lo sapete meglio di me, ci sono forti rapporti soprattutto nel campo di energia, quindi Eni e Enel. Ci sono stati sempre ancora rapporti storici con Fiat. Possiamo dire che la prima macchina russa è stata quella di Fiat, il primo frigorifero e lavatrice sono stati quelli di Merloni e tengono ancora una grossa presenza in Russia, ma anche design italiano sicuramente, cioè Mosca è l'unico design che c'è praticamente italiano. Quando si dice Italia al russo o al moscovita medio, che immagine si evoca? Un bel vestito e pizza, immagino. Un bel vestito e pizza, le prime due cose. Sì. Quando invece tu parli dell'Italia, anche nel tuo tempo privato, con quelli che ti conoscono, con i tuoi amici, con i tuoi familiari, quali sono gli aspetti della vita che racconti che ti hanno sorpreso? Una cosa più sorprendente, anche se ci sono più di 3.000 chilometri di distanza, proprio di similitudine di carattere, di russo e italiano. Parlano due lingue talmente diverse, ma sono molto simili in diversi aspetti, sia come passare tempo libero, sia come fare affari. Quindi con tutti e due è difficile, ci vuole proprio esperienza, eccetera, ma si trovano abbastanza bene. Quindi questo che mi ha colpito, per non parlare da un russo invece del nord, che è arrivato in Italia troppo rumore. In tutta Italia e degli italiani. Un paese, diciamo, molto rumoroso. La prima mia esperienza anni fa, quando sono arrivato in Italia, è stato un mese a Perugia e prime due settimane non ho riuscito a dormire proprio da motorini e moto, quindi questo mi è rimasto da più di 10 anni. Ti è rimasto impresso dunque l'inquinamento acustico italiano? Ho qualche, diciamo, un discorso colorito di qualche donna del sud, perché poi ho viaggiato un po', questa anche, diciamo, qualche urla veramente, ti dico da un straniero, queste cose d'Italia per me è un rumore. L'Italia per te è un rumore. Beh, è molto suggestiva questa descrizione che ci hai fatto. Sul rumore non ci eravamo mai soffermati con nessuno dei tuoi colleghi e corrispondenti. Ci sono diversi aspetti, e tu vivendoci li avrai naturalmente approfonditi, che meritano a volte di essere menzionati nella classica telefonata in patria, ai parenti, agli amici. Nelle tue telefonate di cosa parli? Vabbè, se la mamma, cerco di dire che tutto sta divinamente per non farla preoccupare, ovviamente. Ma la verità? Più vivi tra due paesi o in un paese, che adesso più Italia che la Russia, perché in Russia vado o qualche volta per lavoro, ma piuttosto per le vacanze, trovo veramente sia burocrazia sia tante cose talmente simili che quasi dici, vabbè, solo parli in altra lingua, scrivi in altra lingua, ma sono veramente, non saprei dove la burocrazia è peggiore. Comunque si mangia meglio in Italia, quindi qualche volta dico, ho assaggiato qualche cosa strana, nuova. Sempre alla mamma questo. Sì. Grazie naturalmente a Evgeny Utkin, che adesso si trova a Mosca, ma che normalmente è il corrispondente per il settimanale Expert dall'Italia. Grazie a te. E torneranno naturalmente i nostri corrispondenti a trovarci da martedì prossimo. Non ci sarà l'appuntamento post Ferragosto per raccontarci impressioni, emozioni, differenze, punti di contatto tra il loro paese e questo dove hanno scelto di vivere. Ora parliamo di turismo e dunque di chi in Italia viene non per starci, non per fare reportage su giornali, radio o televisioni, ma semplicemente per immergervisi durante il periodo estivo. Il 13 agosto, oggi, e ci sono queste città che pullulano di turisti e a volte la sensazione che loro ne sappiano più di noi, della nostra arte, della nostra storia, della nostra identità. Pensate che secondo i dati di Banca Italia, a maggio, da gennaio, erano stati spesi dagli stranieri 2 miliardi e 700 milioni, cioè il 9,2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Escluse dunque le rilevazioni estive, sono in aumento le spese dei viaggiatori stranieri in Italia e anche quelle dei viaggiatori italiani all'estero. I viaggiatori stranieri hanno speso e oltre 9 miliardi e 900 milioni nei primi 5 mesi dell'anno, mentre gli italiani all'estero hanno speso di meno, sono partiti 300.000 visite in più ma hanno speso di meno, 7 miliardi e dunque in percentuale l'1,5% di calo rispetto all'anno precedente. I turisti provenienti dall'estero hanno alloggiato in albergo e hanno speso l'8,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2009. Questi sono dati confortanti, ma sono numeri così aridi che ci hanno fatto riflettere su un altro aspetto. Al primo posto tra i paesi più visitati del pianeta non c'è l'Italia e questo forse è dovuto anche alla mancanza di strutture ricettive, a una politica dei prezzi, alla mancanza di attrattive per i giovani in alcuni posti anche di mare e al fatto che i turisti quando arrivano poi non sempre, ma a volte dichiarano di non volerci tornare. E quindi c'è incuria, c'è trascuratezza, forse mancano delle strategie. Ci sono titoli di giornali che ogni giorno ci raccontano uno scempio. Ieri, per citarvene uno, da Torino Nord-Ovest, sui prati della Basilica di Superga fioriscono i rifiuti, bottiglie vuote e cartacce sulla lapide dedicata al grande Torino, i turisti in visita alla città che si lamentano. E ci siamo chiesti: è possibile che gli italiani siano indifferenti al proprio patrimonio artistico? Questo è il tema del nostro sondaggio in bianco o nero. www.radio24.it 24 mattino estate. Rieccoci insieme, ancora un saluto da Irene Zerbini. La sindrome di Stendhal, è detta anche sindrome di Firenze, questo è il nome di un malessere psicosomatico e deve il nome proprio a questo scrittore francese Stendhal che ne sarebbe stato colpito personalmente, non è l'unico, ma lui racconta nel libro del 1817 Napoli e Firenze, un viaggio da Milano a Reggio, ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, così lui descrive quello che fisiologicamente gli succede, ebbi un battito del cuore. La vita per me si era inaridita. Camminavo temendo di cadere. E per avere questo rapimento, per provare queste emozioni forti di fronte all'arte italiana, occorre essere stranieri? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Come loro hanno la sindrome di Stendhal e noi buttiamo le cartacce e lasciamo le bottiglie di vino sui nostri monumenti. Com'è possibile? Siamo diventati indifferenti? Vogliamo sentire anche il vostro parere. Messaggi SMS 349-238-6666. L'email di 24 mattino è 24 mattino chiocciola radio24.it. E ancora un numero telefonico 800-24-0024. Benvenuti a tutti i nostri ospiti. Andiamo subito da chi con gli stranieri ha a che fare tutti i giorni e dunque una guida turistica autorizzata. È un archeologo, si trova a Roma, Silvio Biola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Vorrei innanzitutto chiederle, grazie, se lei ha mai assistito personalmente a questi sintomi della sindrome di Stendhal nei suoi turisti, in quelli che lei accompagna in giro per la capitale. Ma diciamo che la sindrome di Stendhal è stata descritta da uno psichiatra fiorentino, osservando reazioni di forte eccitazione in stranieri che facevano il grand tour, soprattutto nei musei, nei grandi musei fiorentini. E in qualche modo l'esistenza di questo tipo di sindrome, così come la descrive lo psichiatra, probabilmente è dubbia. Sicuramente ho osservato in svariate occasioni rapimenti, eccitazioni, regressioni infantili e gioiose. Ah, sì. Ma più in stranieri? Più in stranieri o... lei accompagna in giro naturalmente italiani e non italiani. Ha notato, sì, questo rapimento? Ha notato una certa immunità degli italiani verso la grande emozione artistica? Ma non so, direi che forse da parte degli stranieri io registro molta più motivazione, molto più interesse e capacità di apprezzare, cioè, quello che noi abbiamo. Negli italiani prevale un po' la mentalità del ce l'abbiamo e quindi tutto sommato poi è quasi come se l'accesso a questo enorme patrimonio, che in qualche modo ha anche una sua complessità, viene dato per scontato. Ma chissà, forse è normale, ci dice un ascoltatore, che segnala, succede anche agli altri, quando io viaggio all'estero vengo rapito da cose che gli stranieri considerano normali, ed è ovvio che siamo un po' abituati alla bellezza che ci circonda. Voi la pensate così? Continuate a partecipare. Ma mi dica, carissimo Biola, lei fa la guida turistica, ha mai assistito, le chiedevo proprio un esempio pratico, lei ha detto ha visto a volte casi di forte eccitazione di questi stranieri, per esempio di fronte a cosa? Mi faccia un esempio. Ma l'ultima volta che le è successo, questa chiamiamola sindrome è qualcosa che ha a che vedere anche con delle passioni soggettive. Però recentemente, anzi direi proprio ieri, è successo un fatto abbastanza curioso ed anomalo che però in qualche modo mi ha fatto registrare questa reazione di ipereccitazione, e che in qualche modo mi ha anche contagiato, perché poi è un qualcosa che in una comunicazione viene contagiata. Sì. Io ero un cliente piuttosto di alto livello, quantomeno economicamente, americano, di un uomo sui 70 anni, molto educato, molto severo, molto preciso, molto puntuale, molto formale. Insomma, abbiamo fatto 5 ore insieme cercando di esplorare Roma, la parte storica di Roma, e poi alla fine così mi ha accennato a una sua passione per le stazioni moderne. E quindi poi mi ha praticamente chiesto di visitare la stazione Roma Termini, che effettivamente è una richiesta piuttosto inconsueta, perché il cliché di Roma non prevede la tappa a Roma Termini. E cosa è successo in questa stazione di Termini? L'impressione è stata proprio di vedere questo uomone grande, sui 70, formale, che più entravamo, perché poi anch'io mi sono fatto contagiare, quindi siamo entrati, saliti nei piani superiori, dove c'erano gli uffici, eccetera, e quest'uomo si accelerava al passo, guardava con occhio aperto e bocca aperta, e seguiva con interesse, cioè era un po' l'impressione di avere una persona che, insomma, come una sorta di bambino che giocava con i trenini. Ma lo faceva in piena coscienza e apprezzando pienamente invece i valori del monumento, quindi in qualche modo... Che sono, ce li sintetizzi per chi non ha familiarità con la stazione Termini? La stazione Termini è un progetto che comincia nel razionalismo del ventennio e poi viene finito dagli allievi di quegli architetti razionalisti negli anni 60, e quindi combina un po' la citazione dell'acquedotto romano, la parte fatta da un grande architetto che si chiama Mazzoni, e poi ha un atrio, diciamo che è una colata unica di cemento che a Roma viene chiamata il dinosauro, che effettivamente quando sali nella parte superiore dell'atrio ti trovi sotto questa colata tutta definita a piccoli teste di dinosauro, è una cosa abbastanza notevole, è un po' una poetica del cemento armato. È qualcosa che può sopraffare. Grazie a Silvio Biola, saluto anche Vittoria Dalverme, responsabile scuola ed educazione del FAI, cioè il Fondo Ambiente Italiano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. E si deve guardare anche ai giovani, alle generazioni di italiani che verranno. E dalla sua esperienza, i ragazzi, i bambini sono insensibili all'arte? Vengono sempre descritti i nostri ragazzi come capaci solo di interessarsi a trasmissioni televisive di poco conto, a giocare col computer, passare diverse ore con i videogiochi. Quando arrivano sui titoli dei giornali, i giovani e i bambini vengono sempre raccontati così, insomma, in maniera un po' maleducati. Lei, voglio sapere qual è la sua esperienza. Dunque, la nostra esperienza è molto positiva, devo dire. Io credo che i bambini, nei bambini e nei ragazzi, non è che sia innato il sentimento della bellezza, come in tutti, anche noi adulti, è latente, è presente, però va in qualche modo educato e portato, diciamo, a esprimersi, a crescere. E quindi quello che noi cerchiamo di fare ormai da più di 15 anni è esattamente educare i bambini, i ragazzi, poi quindi i giovani che saranno i futuri adulti, i futuri responsabili di questo immenso patrimonio d'arte e natura che abbiamo la fortuna di avere in Italia. Saranno appunto i futuri responsabili, e quindi è un grossissimo compito che ci siamo posti. Ma in pratica come si traduce? Allora, in pratica noi facciamo molti progetti nazionali, appunto, di coinvolgimento attivo dei ragazzi, che si fondano esattamente su questi principi. Ogni anno, dunque, intanto dico che entriamo in contatto con circa 40.000 studenti dalle scuole elementari alle scuole superiori, a cui, che appunto partecipano a questi nostri progetti nazionali, a cui si aggiungono altri 50.000 studenti che vengono a visitare le nostre proprietà, quindi diciamo un numero abbastanza considerevole. Ecco, come cerchiamo di coinvolgerli? Molto attivamente, perché pensiamo che solo attraverso un coinvolgimento diretto si possa avere il riscontro di quello della conoscenza, che non deve passare solo attraverso la testa, attraverso i libri, attraverso qualcosa di passivo, ma deve essere E questi bambini e ragazzi rispondono bene o rispondono molto bene? O gli insegnanti vi dicono abbiamo dovuto trascinarli per i capelli? No, assolutamente no, rispondono molto bene. Noi chiediamo sempre anche agli insegnanti una relazione di come è andato questo percorso, e loro ci testimoniano sempre che i ragazzi, man mano che appunto proseguono nell'itinerario di conoscenza, sono estremamente coinvolti. Allora, il primo passo è sempre quello dell'osservazione, quindi noi gli chiediamo di osservare il territorio che li circonda, di scegliere un luogo che magari hanno visto mille volte, sono passati davanti al quale sono passati spesso, ma occhi diciamo un po' come velati, un po' come chiusi, di guardarlo con occhi nuovi e di studiarlo. A questo punto entra in campo la tappa della conoscenza vera e propria, ma che non deve essere appunto solo chiusa in classe, ma anche con uscite fuori, con approfondimenti negli archivi, con interviste agli esperti, a chi diciamo questo. E quindi recuperano anche le storie dei luoghi e poi le diffondono, perché presentano. E poi entra la fase finale, che è quella di una progettazione intorno a questo luogo, perché noi pensiamo che appunto la conoscenza debba poi concludersi sempre con un momento di creatività, e quindi di chiediamo ai ragazzi di valorizzare, di migliorare, di prendersi cura di questo luogo, e quindi per esempio di farlo conoscere agli altri attraverso delle visite guidate in cui loro saranno i ciceroni, oppure. E questo è molto interessante. Loro sono i ciceroni, si svegliano presto al mattino, fanno la guida. Sì, e tra con questi italiani, Vittoria Dalverme, tra l'altro, essendo studenti, ci sono moltissimi studenti con due culture, ci sono anche studenti stranieri che presentano i monumenti italiani. Ormai nelle classi ci sono, come sappiamo, moltissimi ragazzi stranieri a cui noi appunto chiediamo anch'essi di raccontare i monumenti italiani. In quale lingua? Però nella loro lingua, e quindi di raccontarlo ai loro connazionali, per esempio in arabo, in russo, in albanese. Beh, straordinario. E questo è straordinario. Grazie. E noi continueremo naturalmente a parlare. Sono tantissimi i messaggi che arrivano delle vostre esperienze. Ora cerchiamo di dar la parola anche agli ascoltatori. Mirko da Bergamo, pronto? Pronto, piacere. Sì. Piacere. Buongiorno. Allora, premetto, io ho 21 anni che vivo in Italia, sì, a Bergamo, sono di origine dalla Slovenia e sono pienamente d'accordo che l'erba del vicino è sempre più verde rispetto alla nostra, quindi non si apprezzano mai le bellezze che si vedono tutti i giorni, anche io stesso Città Alta la vedo, anche se mi piace tantissimo, ma la vedo diversamente di un svedese o inglese che viene giù con aereo e rimane davvero colpito. Cioè lei ormai è indifferente a Bergamo? No, assolutamente non indifferente, però non riesci a cogliere la bellezza perché la vedi tutti i giorni, cioè ci si abitua a tutte le bellezze un po', quindi, ma non era quello che volevo dire. E allora dica quello che voleva dire. Sì, io volevo dire che una delle prime, quando lei accennava che gli italiani lasciavano bottiglie di vino e cartacce, sì, intorno a monumenti, ecco, infatti una delle, allora in Italia ci sono tante belle cose, gli italiani hanno tante belle proprietà, quello che mi ha colpito 21 anni fa, prima volta che ho visto, è proprio svuotare posaceneri dalla macchina al semaforo rosso, quindi c'è quel diciamo cura solo per l'interno della propria macchina, propria abitazione, e non tutto quello che è per fuori ciò che non è mio, posso danneggiarlo come voglio e come mi pare. Non per ciò che è pubblico. Grazie Mirko, grazie mille a questo ascoltatore sloveno naturalizzato italiano che ha osservato questa tendenza degli italiani. Case tenute in maniera ineccepibile, poi tutto ciò che è fuori, e qualcuno ha parlato anche dell'ufficio, è molto importante, lo spazio di lavoro, lo spazio condiviso, trascurato, non sentito. Figuriamoci il monumento, il patrimonio artistico. Sono 44 in Italia, questo sì, è un record mondiale, i siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Eppure sembra a volte che li conoscano, li apprezzino meglio coloro che li vedono per poco o li ammirano da lontano, sognano, mettono da parte i soldi per venire a vederli, che chi ci vive tutti i giorni. Siamo un po' analfabeti della nostra cultura, della nostra identità, del nostro patrimonio. Ve l'abbiamo chiesto, www.radio24.it è l'oggetto del sondaggio di Bianco o Nero di oggi. Andiamo ora a controllare la situazione del traffico e poi torneremo insieme. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E fino a questo punto la maggioranza pensa che sì, gli italiani siano indifferenti al proprio patrimonio, addirittura è una fetta consistente degli ascoltatori, cresce sempre di più, l'81% crede che abbiamo maturato una sorta di analfabetismo. Si può adottare anche un restauro con il FAI, si può adottare un luogo del cuore, si possono adottare dei monumenti, dei posti, e c'è questa possibilità di fare parte attiva del recupero del patrimonio artistico, sarebbe da approfondire. Ora però noi vogliamo continuare questo viaggio nella sindrome di Stendhal, in questo rapimento, questa sorta di eccitazione anche fisica che provoca l'arte. C'è qualcuno che l'ha voluta studiare e la disturbo, è una scenografa. Buongiorno alla signora Perla Gianni. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'autrice dell'allestimento Nello specchio della meraviglia di Luca Giordano. Cosa avete fatto a Firenze? Beh, a Firenze abbiamo cercato di creare un rapporto estremamente intenso con l'opera d'arte e il visitatore. Come? Quindi praticamente il progetto tende a far camminare letteralmente il visitatore dentro l'opera, perché l'immagine della volta della Galleria di Luca Giordano, che è una sorta di salone degli specchi che ricorda Versailles, è ribaltato, riprodotto in alta definizione a terra. Cioè avete raddoppiato l'emozione in questo modo? Beh sì, e poi l'abbiamo resa anche molto più concreta e tangibile, perché chiaramente il pavimento si può toccare, è molto vicino, non è a 8,5 metri di distanza, e le figure tra l'altro sono della stessa dimensione dei personaggi, grosso modo. Cioè, e poi interessante che prima di cominciare questo percorso, e chiunque sia all'ascolto e voglia capire quanto e se è sensibile all'arte può andare a Palazzo Medici Riccardi nella sala affrescata da Luca Giordano, prima di cominciare vi metteranno dei sensori per misurare eventuali alterazioni fisiche. Cos'è che misurate esattamente? Il battito cardiaco, il consumo d'ossigeno? Dunque, per i visitatori naturalmente che lo vorranno, c'è una lista nella quale ci si può prenotare, e una serie di esperti, c'è un'equipe medica che è composta da neurofisiologi, bioingegneri del CNR, psicologi e dell'Università di Firenze, predispongono queste rilevazioni che sono il battito cardiaco e la frequenza respiratoria in tempo reale, quindi praticamente mentre si fa il percorso viene registrato contemporaneamente il tipo di reazione che ognuno ha alla esperienza del percorso. E i dati ci sono già risultati o state ancora svolgendo questa raccolta? Stiamo ancora svolgendola, poi c'è anche la rilevazione della mappatura cerebrale all'inizio e alla fine del percorso, e una rilevazione di tipo qualitativo che è eminentemente psicologica. E sarà interessante analizzare con voi i dati quando li avrete a disposizione. Sentiamo anche chi ci ha raggiunto via telefono all'800 24 00 24 a Milano. Buongiorno Gala. Buongiorno. Dica. E volevo dire che noi lavorando a Milano, le guide turistiche, vediamo che molti gruppi turistici sono accompagnati dalle persone non autorizzate, non qualificate, e chiaramente i turisti rimangono delusi perché preparandosi a questi viaggi ormai hanno preso molto più di quelle... di quello che gli viene detto. Beh, questo è interessante. Ma senta, velocemente, cosa chiedono i turisti? Cosa vogliono sapere? Quali aspetti? O c'è una differenza tra nazionalità e nazionalità? Ci sono curiosità? Sì, ci sono molte curiosità alla storia, alla cultura, ai monumenti storici, all'arte innanzitutto italiana, che vedono tutti i giorni la televisione russa, studiano, si preparano, molte persone sono laureate nella storia d'arte, e quando fanno questi viaggi cercano riscontri. Vorrebbero delle informazioni un po' più approfondite. Grazie a Gala. Andiamo a Firenze dove c'è Filippo. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno, salve. Allora, dunque, io sono un giovane psicologo livornese che però lavora a Firenze. Sì. E dunque volevo fare un appunto rispetto alla parola sindrome, che è traducibile con concorrere o concorrenza, nel senso che la sintomatologia che viene fuori nelle sindromi è varia perché vari fattori concorrono. Quindi... Sì, beh, questo è ovvio, va da sé. Era un po' una provocazione quella della sindrome di Stendhal per capire se ci emozioniamo ancora di fronte al nostro patrimonio, se ne siamo orgogliosi in maniera sana, naturalmente, non sciovinista, se ci dà ancora delle sensazioni o dobbiamo sempre vederlo con gli occhi degli stranieri per capire che valga qualcosa. Beh, infatti, allora io parlo della mia esperienza. Io ho abitudine quasi settimanale di muovermi per Firenze, e la prendo come momento di meditazione. Cammino piano piano per Firenze e mi muovo nei monumenti storici o comunque tra i palazzi di Firenze, rilassandomi e cercando di pensare alla simbologia dei monumenti. Il Nettuno in Piazza della Signoria, che erano le ambizioni marittime dei Medici, il Perseo con la testa di Medusa rispetto alla vittoria dei Medici sulle macchinazioni. Insomma, lei non è diventato indifferente, si emoziona ancora, giusto? Mi emoziono e soprattutto sento che di pancia, molto sul piano emozionale, quella simbologia mi fa sentire da dove vengo. L'identità, grazie Filippo, e questo è un passaggio importante. Da Firenze naturalmente ci è venuta questa sollecitazione, noi abbiamo disturbato anche uno scrittore e editorialista tra l'altro della Stampa che su queste cose scrive, si chiama Antonio Scurati, è nato a Napoli, Scurati, ma è cresciuto a Venezia. Allora è vero che gli stranieri sono sempre più sensibili di noi? Se sei cresciuto a Venezia non lo tematizzi il fatto del capolavoro artistico, ci vivi in mezzo fin da bambino, ci giochi a pallacanestro dentro, io se non ricordo giocavo a basket dentro il meraviglioso Palazzo della Misericordia, però sei tu, è tuo, no? c'è una coappartenenza inscindibile, ti sentiresti morire se quando ti viene tolto. E poi c'è invece una indifferenza di segno diverso, più triste, è quella per cui si perde rilevanza vitale, no? Non, la nostra vita non dipende più, ci pare non dipendere più da esso, e quindi lo accantoniamo, lo devastiamo, lo ignoriamo. Questa seconda indifferenza, più meschina, più triste, più dannosa, la vedo effettivamente crescere, montare attorno a noi. Ma è inevitabile perdere questo incanto di fronte all'arte, o è colpa di come ce lo raccontano anche a scuola? Diventa un po' una routine? No, io non credo che sia inevitabile perdere l'incanto di fronte all'arte, diciamo così, alla gloria e ai fasti del secolo passato. Sta forse accadendo in Italia, ma non è una deriva fatale, obbligata. Sì, sono numerosissimi gli aneddoti che tutti noi potremmo raccontare di stranieri che, giunti nel nostro paese, hanno manifestato questo stupore infantile, alcuni anche buffi. Io ne ricordo uno quando ero ragazzo, ma partecipai a un programma di scambio culturale e trascorsi un anno all'estero negli Stati Uniti, e poi ospitammo, ricordo, una ragazza australiana che, giunta a Venezia, trovava tutto vecchio, decrepito e in maniera piuttosto così brutale per noi ci diceva: ma non buttate tutto giù e costruite una bella fontana moderna come c'è a Sydney, forse, non ricordo di quale città fosse originaria. E in un solo momento però si rese conto dello sproposito di ciò che diceva, quando la portammo ad Amalfi, e di fronte alla pasticceria che sta in piazza ad Amalfi, che si chiama Pansa, c'è la data appunto di fondazione scolpita nel marmo. Lei disse: non è possibile, è sbagliato, questa pasticceria non può risalire al 400, cioè, perché era la data precedente a quella della scoperta dell'Australia. Allora per lei era inconcepibile che una pasticceria stesse lì da prima che l'Australia, la sua nazione, venisse fondata. Allora, la nostra guida turistica, ne dicono anche di spropositi anche gli stranieri, Silvio Biola. Ma tutto sommato gli spropositi che provengono da culture non abituate a una concentrazione monumentale così enorme come quella che abbiamo noi sono più accettabili, modo, secondo lei? Allora parliamo. No, io non parlerei di accettabile, perché già entriamo nel mondo del giudizio. A me non piace giudicare, è quasi un tentativo di avvicinarsi a qualcosa di vissuto come estremamente strano, quindi è un fatto del tutto positivo. Evidentemente, quando ci avviciniamo a qualcosa che è nuovo, è come se ritornassimo bambini perché non abbiamo delle conoscenze previe. Quello che io invece trovo che sta succedendo in Italia, e questo secondo me è un fatto estremamente grave, ma molto più grave di quanto uno possa immaginare, è che non è che abbiamo indifferenza perché siamo abituati, è proprio che abbiamo perso il senso del fatto che i monumenti e l'arte sono un linguaggio. Questo linguaggio ci parla di noi stessi, della nostra identità. E quindi sostanzialmente che cosa prevale? Prevale la mentalità che tutto è dato per acquisito, e soprattutto nei confronti, per esempio, degli operatori che in qualche modo si dedicano a cercare di fare umile divulgazione. Io adesso posso parlare del mio punto di vista, è quello di una guida, poi altri, insomma, chi si occupa di questo è chiaro, venga al punto, altri sì. Problemi. E in qualche modo, cioè, lo straniero ci si affida, considera e prende seriamente questo ruolo perché vede le difficoltà che ha nel capire questo linguaggio fatto di bello, ma non solo, perché ringraziando Dio è bello per il bello, perlomeno qui io posso parlare di Roma, conosco bene Venezia, conosco bene Firenze, ma Roma è la mia specialità. Il bello per il bello non esiste, è un delirio del moderno. Il bello ha sempre una funzione pratica, ha sempre un significato forte. Mentre negli italiani prevale questa mentalità un po' del fai da te, ci avremo il Colosseo, ci avremo qua, ci avremo là, e tutto sommato poi alla fine tutto questo poi è proprio... Grazie a Silvio, in chiusura di una trasmissione davvero particolare, oggi venerdì 13 agosto, un patrimonio artistico l'abbiamo anche noi. Non piangere. Sono le persone il nostro patrimonio artistico. Dà il suo addio a Sara Spreafico. È un volto dietro il vetro quello di Sara Spreafico. Voi sentite sempre le voci dei conduttori, ma la grande circolazione di idee, gli autori stanno lì, fanno fatica. Vogliamo congedarci? Dopo 6 anni se ne va. E dunque grazie per tutto quello che ci hai dato. Ci mancherai, Sara, e puoi giurarci, ti mancheremo anche noi. Da Irene Zerbini, appuntamento a lunedì.